Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buona domenica, siete in contatto con il Groovemaster Studio per l'ennesimo appuntamento del Soundcheck, la prova del suono qui su Radio 24, puntata numero 203, che oggi ospita una band, io sono molto contento, una band che finalmente ci potrà parlare del prossimo Festival di Sanremo. Perché questi ragazzi, che io conosco da un po' di tempo, pur proponendo un genere assolutamente poco sanremese, quest'anno riusciranno a calcare il palcoscenico dell'Ariston proponendo il loro sound e soprattutto i loro testi. Vado a introdurvi una band oggi innominabile in radio, perché sebbene sia scritto, non so se pronunciarlo in inglese, perché in inglese dovrei pronunciarlo cazzo, ma in italiano la band ha un nome appropriato, no? Soprattutto per il Festival di Sanremo di quest'anno, ovvero i Cazzo. I Cazzo sono presenti qui al Soundcheck di Radio 24 e ve li presento con tutto l'affetto possibile. Buon pomeriggio e benvenuti al Soundcheck. Ciao Gegè, ciao a tutti gli ascoltatori. Eccoci, allora siamo pronti. La prima cosa che io vorrei chiedervi è: che diavolo è successo? Perché quando noi ci siamo visti 2 anni fa, voi avevate da poco realizzato questo album, per ora credo l'unico all'attivo per la vostra formazione, intitolato Decadendo su un materasso sporco, album assolutamente indipendente, e poi vi ritrovo pronti per affrontare il Festival di Sanremo. Che cosa è successo in 2 anni? La cosa di Sanremo è successa in un mese in realtà, perché vabbè, nel frattempo noi abbiamo suonato dappertutto, in quest'anno, nel 2014, mi presento, io sono Matteo, sono il cantante. Matteo Gabbianelli, sì, scusa, avrei fatto la presentazione più tardi di tutti. In quest'anno abbiamo fatto tantissime cose, abbiamo suonato il 1° maggio di San Giovanni, siamo stati in America con Caparezza, abbiamo fatto più di 100 concerti in un anno, insomma, sono successe tante cose. Poi nell'ultimo mese di ottobre, in pochissimo tempo si sono create le condizioni per provare ad entrare a Sanremo, cosa che non abbiamo mai pensato, anche perché insomma facciamo una musica che non è in quel mondo lì, però ci è stato proposto di farla questa cosa senza cambiare nulla. Noi abbiamo portato un pezzo che non abbiamo scritto per Sanremo, era già ce l'avevamo quel brano lì. Perché di solito invece si fa così, si sa di dover partecipare a Sanremo, esatto, e si scrive una canzone fatta per l'occasione. Esatto, no, in realtà noi avevamo già tutto il disco pronto, stavamo aspettando un'occasione importante per farlo uscire. È uscita la più importante che mi sembra proprio di sì. Allora, leggo qui i Cazzo, e questa è la pronuncia giusta, no? Non vi offendete, non vi state offendendo. Finché no? Possiamo, diciamolo. Finché si può. Allora, i Cazzo uniscono scherzo e provocazione ad un linguaggio musicale gioiosamente frenetico. Che significa? Allora, la nostra musica è caratterizzata da continui colpi di scena, cioè noi facciamo brani molto brevi, molto d'impatto come suono e anche a livello di stacchi. Questa è una cosa positiva, perché non c'è più il tempo, quindi il fatto di scrivere dei brani con delle stesure da 2 minuti e mezzo è una cosa buona. Ma sono delle pilloline, in realtà in questo ci rifacciamo molto alla maniera in cui veniva diffusa la musica, soprattutto negli anni 60, 50, 60, erano tutti brani di 2 minuti, appunto 2 minuti e mezzo, molto brevi. Ci piace, per primi a noi piace questa cosa, insomma, fare delle, come ho detto prima, delle pilloline che non diano il tempo di annoiare, insomma, per primi noi non vogliamo annoiarci. E allora, siccome pure io non voglio annoiare facendo questo programma, direi di passare subito ai fatti e di capire che cosa fanno musicalmente i Cazzo. Forte, sai che si fa fatica, no, a pronunciarlo, e uno ci deve pensare un po', però va bene così. Allora, intanto io direi di presentare tutti i musicisti della band, quindi Matteo Gabbianelli, vocalist, ma anche autore della maggior parte dei brani, poi Donatello Giorgi, chitarra e voce, Luca Amendola, basso e voce, e Simone Bravi alla batteria. direi di ascoltare il primo brano. Avrei selezionato proprio quello con il quale aprite questo primo album, lo ripeto, intitolato Decadendo, album che troverete senz'altro su iTunes per chi vuole pagare qualcosa, per chi invece si ritrova senza soldi. I cazzo hanno fatto quello che di solito fanno gli artisti contemporanei, ovvero pubblicare il tutto su YouTube, quindi gratuitamente potrete scaricarvi il disco. Siete contenti? Sì. Ecco, il brano si intitola Ale. Di cosa parla? Lo ascoltiamo e poi lo commentiamo. Ed ora ho la testa chiusa nella busta, chissà se mi rimpiangerai. Sono felice, sono tanto allegro, che bello vivere Ale. Ed ora sono felice, sono contento e i miei giorni ridono con me. Il suono dei cazzo qui su al Soundcheck di Radio 24, il sound dei cazzo, nostri ospiti qui al Soundcheck. Io non so, Carlo Conti lì al Festival di Sanremo, come pronuncerà il nome della vostra band, avrà qualche problema? Guarda, noi quando abbiamo scelto questo nome non abbiamo pensato in realtà che poi avremmo fatto in effetti delle interviste, delle cose, e poi quando ci siamo... soprattutto non pensavate di approdare forse al Festival di Sanremo o in televisione. Insomma, la band è nata con uno spirito, credo quasi da mercenari, no? Antagonista. Ecco, siamo da antagonisti, quello sì. Però insomma invece ci ritroviamo in questa situazione, cioè noi pensiamo di essere esclusi a priori da questo mondo già solo per il nome, esatto, della band, e invece questo nome è motivo invece di gossip, di interesse, di curiosità, esatto. Sicuramente al festival non verrà pronunciato cazzo, verrà pronunciato cuzzo, però noi vogliamo comunque creare... Però dal vivo, quando voi salutate il pubblico, sì, come presentate la band? Noi siamo i cazzo. Ecco, l'abbiamo detto. Allora, noi siamo precisi e quindi ci atteniamo proprio. Vabbè, allora, il brano era, che abbiamo ascoltato, Ale, testo abbastanza forte, eh? Sì, le nostre canzoni sono uno spurgo della negatività che ci portiamo dentro. In realtà noi poi nella vita siamo persone molto conviviali. Sì, voi andate a ripulire la fossa biologica della vita. Ti piace questa? Mi piace. È bella, è carina. Ricordatevela questa, la dite a Carlo Conti. Quindi diciamo, ecco, nelle canzoni parliamo un po', è come se ci parlassimo allo specchio, ci diciamo le cose come stanno, senza sconti, in maniera molto diretta. Questa cosa poi ha anche in alcuni momenti un effetto, se vuoi, pure esilarante, perché appunto abbiniamo dei testi assolutamente mortiferi, definitivi e amari a delle Li sentiamo nelle altre canzoni a delle musiche invece maggiori, solari, pieni di gioia di vivere. Ci piace questo simoro, questo contrasto. Allora vi faccio ascoltare uno dei miei preferiti, si chiama John Mayer, lo conoscete? Sì. Il brano bellissimo Stop This Train qui al Soundcheck di Radio 24. No, I'm not colorblind. I know the world is black and white. Try to keep an open mind, but I just can't sleep on this tonight. Stop this train, I wanna get off and go home again. I can't take the speed it's moving in. I know I can't, but honestly, won't someone stop this train? Soundcheck, il suono della musica. Celerini presto scioperate nelle strade, calpestiamo insieme quei compassi nei palazzi. Via dal mondo, via dal mondo, via dal mondo, via dal mondo. si intitola Via dal Mondo, il brano che abbiamo appena ascoltato qui al Soundcheck di Radio 24. Naturalmente protagonista il suono dei Cazzo, band che partecipa al prossimo Festival di Sanremo. Album, l'unico per ora pubblicato, è Decadendo, su un materasso sporco che troverete su iTunes, ma anche, lo abbiamo già detto, potrete scaricarlo gratuitamente sul vostro canale di YouTube. Allora, sono nostri ospiti. Intanto raccontami un po' Via dal Mondo, il testo interessante, pungente, stimola forse i celerini a dare manganellati a altri e non ai ragazzi durante le manifestazioni. Sì, quella canzone l'ho scritta dopo essere stata una manifestazione, ero lì presente insieme ai manifestanti e insomma ho riflettuto un po' sul fatto che per gli errori e per gli interessi di persone che sono al di fuori, al di sopra insomma della società, quali la classe politica, ci troviamo cittadini l'uni contro gli altri a lottare per le briciole, insomma. Quindi ho un po' fotografato il momento emotivo e irrazionale della protesta, il momento in cui, non appena subito il sopruso, c'è un istinto a reagire magari anche in maniera violenta. Non è una canzone di impegno sociale quanto mette l'accento proprio sull'aspetto irrazionale, come ho detto prima, dello scontro, ecco. Il più è fatto per voi, avete tanti concerti sulle spalle, avete già un pubblico che vi segue, di affezionati, adesso parteciperete al Festival di Sanremo, poi ci saranno tanti concerti, insomma la carriera più o meno sta andando a gonfie vele per voi. C'è tanta musica giovane, interessante del nostro paese, però se non partecipi, ecco, a X Factor, se non hai quella fortuna, o al Festival di Sanremo, quali sono oggi le possibilità per i giovani artisti? Io sono Donatello. Donatello, benvenuto. E, diciamo, le difficoltà del musicista in Italia, ma in realtà credo anche nel resto del mondo, siano riuscire a trasformare in una professione vera e propria il fare musica. E, diciamo, noi infatti è quello che facciamo da anni, fondamentalmente prendere questo lavoro come una cosa che certo ci diverte, ma non è un divertimento. Sì, la cosa più difficile all'inizio è far diventare la propria passione un lavoro, sì, cioè infatti, vivere di musica. Da sempre quella è la siamo cosa più determinati complessa. Proprio a farlo con la serietà comunque lavorativa e professionale. E diciamo, è vero che in Italia c'è, adesso si pensa che la musica giovane debba per forza provenire dai talent show, in realtà c'è un grosso fermento musicale, magari più nell'ambito della musica, diciamo, alternativa, l'ambiente dove siamo stati per molto tempo noi, e il fermento e la proposta c'è. Certo, poi in televisione si vedono appunto i talent show, ma più che altro perché lì sono uno spettacolo televisivo. Per carità, io credo, poi credo sia una sì, uno spettacolo televisivo supportato da una multinazionale discografica che quindi cerca con facilità, non voglio dire degli stereotipi, ma delle sonorità e degli artisti di riferimento sulla musica di oggi, non cerca quasi mai la tendenza. No, difatti il secondo, parlo per me, ma insomma una opinione un po' del gruppo, il problema dei talent non è tanto un discorso di qualità dei cantanti poi che sono in gara, quanto il discorso che è difficile riuscire appunto a portare un progetto realmente personale, originale all'interno del talent, e quindi ecco, si seguono, come hai detto tu, delle tendenze un po' preconfezionate. Esatto. Allora, vi faccio ascoltare adesso invece il talento del pianista cantante inglese Jamie Callum, che anche lui ha iniziato suonando nelle cantine, però poi giovanissimo ha trovato nella multinazionale Universal lì in Inghilterra qualcuno che ha creduto nel suo talento, e in poco tempo è diventato il best seller del jazz inglese, e qui lo ascoltiamo in una sua composizione intitolata My Yard. Jamie Callum al Soundcheck di Radio 24. So hail a taxi cab and come around here, and I will meet you right outside. I got some DVDs and a couple of beers, and if you want to we can stay up all night. It's nothing fancy, just a little couch and me. One, me, me, me, me, me, me, Soundcheck. Il suono della musica. My spirit is with the breeze, far from the things I used to know. While I'm free, using the truth to let go. Dopo l'informazione di Radio 24, dopo i Moonchild con The Truth, trio californiano che abbiamo più volte presentato qui al Soundcheck, siete di nuovo collegati con il Groovemaster Studio che oggi ospita la band denominata, chiamata e riconosciuta come Cazzo, e loro saranno al Festival di Sanremo fra le nuove proposte nella prossima edizione, e naturalmente hanno vissuto la musica fino a oggi da artisti indipendenti, producendo tutto il loro materiale nel loro studio, no? Perché Matteo, tu, tutto quello che viene proposto poi nella vostra, nei vostri CD, viene realizzato nel tuo studio. Tu sì, fai anche questo come lavoro. Registriamo, mixiamo, masterizziamo nella Cazzo Noise Home. Ecco, però fino a poco tempo fa curavi anche un po' l'immagine, la promozione e la distribuzione. Adesso io, per avervi qui da me, ho dovuto parlare col vostro ufficio stampa, e la cosa mi ha anche un po' irritato, devo dirlo. Vabbè, per dare una parvenza di professionalità. No, è una cosa buona, è una cosa buona. Beh, vuol dire che le cose stanno cambiando, no? Sì, sì, ma... Non so se è meglio, però, perché tanto prima o poi tornerete a essere indipendenti al 100%. Noi quello che stiamo cercando di fare in questo momento è di entrare in questo ambiente, diciamo mainstream, ma sempre con il controllo delle nostre cose. Quindi l'ufficio stampa con cui hai parlato, in realtà ci abbiamo un rapporto diretto. Cioè, è una delle vostre fidanzate? No, no, no. No, però diciamo è tutto molto, come dici tu, artigianale. Quindi poche persone che stanno 24 ore su 24 sul pezzo e non devono chiedere il permesso al direttore. Ecco, ecco, i Moonchild distribuiscono la loro musica non attraverso la discografia ufficiale, utilizzando però siti, portali internet come Bandcamp e SoundCloud. Voi avete pensato di utilizzare anche questo tipo di piattaforma? Rispondo io, che sono quello più nerd del gruppo, sono Luca, il bassista. Ah, sei il più nerd? Diciamo, sì, mi lasciano sempre parlare su queste cose. E che questo non è male, dei cazzo sei il più nerd, pensa. Diciamo sì, ne esistono così tante che penso che non ci ricordiamo neanche tutte quelle su cui siamo iscritti. Cioè, vabbè, Reverb Nation, YouTube, come abbiamo già detto prima, SoundCloud. Diciamo che senza queste cose noi non, forse probabilmente non saremmo mai arrivati a questo punto. Diciamo che è il massimo modo per poter fruire della musica sia velocemente che senza stare a pensare a molti fronzoli. Quindi uno dice, c'ho la curiosità, già se devo pagare... Parto prevenuto. Sì, ma puoi dare anche un valore alla tua musica. Io ho visto che Moonchild... Non parlavo della nostra. No, però io la trovo una cosa molto interessante. Dai tu il valore alla tua musica e decidi quanto devono pagare i tuoi fans per acquistare l'album completo. A volte anche gratuitamente, a volte c'è anche un'offerta. Datemi quello che volete. Su Bandcamp succede. Hanno fatto Tom York, se non sbaglio, l'ultimo è stato su Bandcamp. Sì, ma io lo dico ormai sempre. Da quando gli U2 hanno distribuito, hanno regalato il loro album a tutti gli utenti della Apple, praticamente hanno ammazzato definitivamente il mercato, sì. O no? Sì, assolutamente. Diciamo che oramai, non essendoci più tutta questa cultura del vendere il disco, quindi è più facile arrivare alle persone, poi alla fine è il vero senso della musica, no? La gente deve cantare il tuo pezzo. Beh sì, voi però i dischi adesso che avete fatto fino ad oggi, li avete stampati e venduti soprattutto durante i concerti. Sì, ma il disco in quanto oggetto ha più un valore di souvenir, nel senso che infatti lo vendiamo, noi stiamo anche su Amazon con la copia fisica, ma il grosso l'abbiamo venduto ai concerti, abbiamo venduto tante copie, ma la gente vuole un ricordo materiale. Però io sono d'accordo sull'eliminazione del supporto fisico. Primo, c'è meno immondizia nel mondo e poi la musica continuerà a vivere. Cioè, io penso sempre, no, che la musica ha accompagnato l'uomo nella sua evoluzione, ma il supporto fonografico è un minuto nell'arco della storia della musica, quindi chi se ne frega che sparirà. Allora, vi faccio ascoltare una cantante che ha partecipato al Festival di Sanremo negli anni passati, una delle voci più belle del panorama italiano, si chiama Tiziana Donati, in arte Tosca. Questo è un brano recente tratto dall'ultimo album prodotto da questa bravissima artista. Il brano si intitola Via Etnea e qui stiamo proprio parlando di grande musica italiana. È arrivata Nini, che profumo un bouquet, questa via Etnea. Che primavera Nini, fior d'arancio e caffè, vento e sale dal mare. Un gelato, una brioche e passeggiando va. C'è un organetto che suona dietro un bar, è un tango Nini. Soundcheck, il suono della musica. Sì, i cazzo sono ospiti del Soundcheck di Radio 24, assolutamente. Voi sapete già quando parteciperete, cioè il giorno esatto lì al Festival di Sanremo? Il giorno preciso non c'è ancora, però credo, visto che il festival sarà dal 10 al 14 e so che il primo giorno non si fanno le nuove proposte, quindi sarà o l'11 o il 12. No, perché non mi voglio perdere l'imbarazzo di Carlo Conti nella presentazione della band. Voglio proprio vedere che cosa farà. Allora, intanto io consiglio agli appassionati di musica di andarsi a ricercare un po' la musica dei cazzo via internet e se avete occasione di vederli dal vivo vi assicuro che vi divertirete molto. E così come riporta il loro sito, la loro musica solare è irriverente e il tappeto sonoro di testi segnati da forti dosi di simpatico disfattismo e smielato sarcasmo. I concerti veri e propri mix esplosivi di nonsense, disperazione, movimenti inconsulti. Chi fa i movimenti inconsulti? Sempre te. Cioè, che movimenti fai? Finto karate, salti mortali, la verticale. Ho imparato a fare la verticale durante i concerti. Che bravo. Poi dice invettive, travestimenti estemporanei. Chi fa i travestimenti estemporanei? È colpa mia, Donatello, sì, chitarrista. Ma tu a volte non ti sei esibito in mutande? Ma il più delle volte. Ah, il più delle volte. Ormai ho un problema a suonare. Ma è un vestito. Problema epidermico proprio con i pantaloni. No, in realtà il discorso del. Ti prego, vai in mutande al Festival di Sanremo, dai, fallo per noi. Chi lo sa, vedremo. Non si sa, ti fai fare delle mutande firmate, che so, da Giorgio Armani, perché puoi sempre dire che sono delle mutande smoking. Sono assolutamente disponibile a fare da testimonial. Dei mutandoni neri, capito, con la banda di che ne so, di seta. Sono disponibile, se qualche stilista famoso si fa avanti. So che non mi deluderai, mio caro. Allora, poi che altro dice? Travestimenti estemporanei trasportano il pubblico in un'atmosfera surreale e sgangherata. Questo è il concept che porterete anche lì al Teatro Ariston o indosserete lo smoking e diventerete, dei Toto Cutugno? Guarda, noi ci sentiamo... Sì, forse. Dico, farebbe ridere tutti i vestiti da Toto Cotugno. Perché? E in smoking è serissimo. Ma in realtà, non fa ridere nessuno. Avevo pensato di vestirci tutti da Carlo Conti, però poi. Non è male. Non ci riuscivamo. Quindi, però in realtà la cosa bella, e per questo ci sentiamo anche privilegiati, è che noi andremo a Sanremo a fare noi stessi. Semplicemente divulgheremo il nostro progetto. Non abbiamo dovuto cambiare nulla e nulla cambieremo e non ci è stata richiesta questa cosa. Quindi andiamo lì veramente a pubblicizzare quello che noi siamo, quindi sì, quello che portiamo al concerto lo porteremo anche a Sanremo. Ecco, l'unica cosa che mi preoccupa, no, per anticiparvi, cioè, anche se tu hai scritto questo testo e quindi già dichiari una certa preoccupazione nel fatto di andare avanti con l'età, il brano si intitola infatti Eviterò la terza età, nel senso che fai, che ti chiudi a casa o ti ammazzi? Ma guarda, quella canzone l'ho scritta, siccome devo fare un preambolo, nella mia famiglia io non ho avuto belle esperienze con la parte anziana della famiglia, sai, il nonno, i nonni, ci sono sempre state cose anche molto negative, quindi osservando quella parte della mia famiglia che è arrivata alla terza età ho detto non ci voglio arrivare, non voglio essere così. Non voglio diventare così, però la cosa che mi preoccupa, e lo dico per voi, è che quando, mi auguro che la band possa restare insieme per 20-30 anni come i Pooh, no? Quando arriverete quindi a 50-60 anni e continuerete a fare la vostra musica, allora inizierete a riflettere sul fatto che la band forse si chiama Cazzo e che Eviterò la terza età non è forse, è un brano che dovrete togliere dalla scaletta. Intanto noi lo ascoltiamo qui al Soundcheck di Radio 24. Di che parla? Beh, il titolo è già tutto un programma, parla di questo, no? Ma mescola questa paura nei confronti della senilità avanzata con l'ipocrisia che caratterizza i rapporti interpersonali. Emigrerò nell'aldilà prima che sia tardi, eviterò la terza età e i sogni infranti. Brano intitolato Eviterò la terza età, che troverete nel primo album dei Cazzo, presenti qui al Soundcheck di Radio 24, album intitolato Decadendo su un materasso sporco, ma credo che dopo la partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, fra le nuove proposte, verrà pubblicato il nuovo album, che credo abbia già un titolo. Qual è? Il titolo è Musica per persone sensibili. Oh, molto bello questo titolo. E la musica inserita in questa produzione è sensibile? È entusiasmante, emozionante? È molto sensibile, molto intimista e vale la pena di ascoltarla con attenzione. Bene, io invece vi dico attenzione lì a Sanremo. Non so se siete mai stati a Sanremo anche d'estate per fare qualche giorno di vacanza, ma durante il festival e beh, la cittadina cambia, perché arrivano le fans da tutta Italia, quindi subito dopo la vostra prima apparizione in televisione preparatevi a scene di pura follia, e quindi te che andrai al festival con quel paio di mutande che metterai sul palco, quelle firmate dal grande stilista italiano. Ne porto una valigia di ricambio. Portane un paio perché ti verranno sicuramente strappate. Che non peccato, che vedranno. Peccato. No, succede questo, vi divertirete molto, eh? Che dirvi, in bocca al lupo. Senti, e per seguirvi invece via internet avete un sito di riferimento? Allora, innanzitutto per gli ascoltatori il nome si chiama Cazzo o Cuzzo, ma si scrive KUTSO. Certo, quindi se andate certo su internet, cercate KUTSO su Google e vi comparirà tutto quello che serve per trovarci, per seguirvi. Esatto. Bene, allora grazie per la partecipazione. Io do appuntamento a tutti gli appassionati di musica alle 19:15, seconda parte del Soundcheck, quella più jazz. E quindi ragazzi, vi auguro di divertirvi con la musica, di lavorare bene non solo al Festival di Sanremo, ma nei prossimi mesi, perché lì poi succederanno cose. Tanto l'importante è andare in giro a fare concerti e suonare avanti a un pubblico numeroso, ma soprattutto appassionato. Posso dire una cosa en passant? Che ci tenevo a dirtela, non so quanto poi esca fuori dalle nostre canzoni, ma io ho imparato a cantare anche studiando le tue performance. Peggio per te. Grazie ragazzi. Allora un brano benaugurante, si intitola Good Times, perché il periodo è positivo per voi. Richard Bonat, eccellente bassista, strumentista meraviglioso, compositore, con Frank McComb. Pensate che accoppiata. Vi lascio con Good Times. A tutti voi buon ascolto con Radio 24. Ci sentiamo più tardi dalle 19:15. Grazie ragazzi, in bocca al lupo. Those people who choose to be free, they always have the greatest personalities. You like having them around when you're feeling down and incomplete. Check 1 2, mic check 1 2, mic one, check 1 2. Sound check, il suono della musica di JJ Telesforo. Turn it on, turn it on. Pronti per dare il via alla seconda parte del soundcheck di questa domenica, come sempre una seconda parte dedicata al jazz. Buonasera a tutti da GG Telesforo e oggi vogliamo celebrare la passione per il jazz di uno dei più importanti registi della filmografia internazionale statunitense, ovvero Woody Allen, grande appassionato del jazz, che oggi si ritrova sulla copertina di questo CD, triplo CD, un bellissimo cofanetto molto ben realizzato, una confezione molto elegante, ma soprattutto una compilation che raccoglie gran parte dei brani tratti dall'opera dei grandi maestri del jazz selezionati da Woody Allen per le sue colonne sonore. E per parlare di Woody Allen, visto che è nato nel 1935 e che compirà 80 anni, non potevo non invitare un suo coetaneo, ovvero mio padre, l'architetto Roberto Telesforo, appassionato come Woody Allen di jazz, ma probabilmente questo già lo sapete. Buonasera papà e ben ritrovato al soundcheck. Grazie Gigi, io ti ringrazio per avermi invitato a questo incontro particolare parlando di un grandissimo artista. Eh sì, hai ragione papà, nato il primo dicembre del 35, Woody Allen è regista, sceneggiatore, compositore, scrittore, commediografo, ma anche clarinettista. Ha iniziato a suonare il clarinetto all'età di 15 anni e ancora oggi continua a esibirsi, lo fa in momenti alterni, perlomeno quando non è impegnato sui set, tutti i lunedì lì a New York, a Manhattan, lo ha fatto in due club, aspetta che ti voglio anche dire come si chiamano i club, una volta suonava al Michael's Pub e adesso invece si riunisce con la sua New Orleans Jazz Band al Caffè Carlyle e fa anche belle tournée il signor Woody Allen. Sì, da tempo, lui proprio da giovane ha cominciato a suonare il clarinetto e è diventato anche un clarinettista dilettante, come musicista, un clarinettista a livello di Renzo Arbore. Beh, posso dire la verità, io Renzo lo conosco bene, suona meglio Renzo di Woody Allen, no? Forse ecco, parlando di registi, Woody Allen potremmo paragonarlo a Pupi Avati. Pupi Avati. Pupi Avati, va bene, però tutti i registi adorano il clarinetto, tu invece da architetto... Io ho sempre adorato il sassofono, il sax tenore, ma è rimasto sempre una cosa molto è proprio stata una lotta tra me e il sassofono. Il sassofono, come ti consideri come sassofonista? Pessimo. Pessimo. Vabbè, la modestia comunque è una grande virtù, la virtù dei grandi musicisti. Ah, sì. Allora, celebriamo Woody Allen, lo ripeto, guarda che bella confezione papà, te lo regalo il CD, eh? Beh, sì, sì, ti faccio un bel regalo, grazie, guarda. Grazie, sei coetaneo di Woody Allen. Come... E c'è, guarda, è molto piacevole, tre CD, c'è un sacco di musica divertente e vorrei dare il via con uno dei nostri pianisti preferiti, ti sto parlando di Teddy Wilson, con questa registrazione del 1956 di I Got Rhythm, brano storico scritto dai fratelli Gershwin, estratto dal film di Woody Allen Celebrity del 1998. Ecco qui Teddy Wilson al soundcheck di Radio 24. From the Films of Woody Allen è questa compilation che oggi noi vogliamo presentarvi, un bellissimo album che viene pubblicato dalla, fammi vedere la casa discografica papà, passami un attimo il CD, Triangle Music, ma in Italia è distribuito dalla premiata distributrice Egea, che continua a portare in giro per il nostro paese ottime pubblicazioni e ottima musica. Quindi Woody Allen è il protagonista della puntata di oggi, ma parliamo comunque della nostra sana passione per il jazz. Vedi qui nelle note di copertina lo stesso Woody Allen racconta, ci fa capire che è molto importante la musica che si ascolta da bambini. Lui si svegliava la mattina per andare a scuola e prima di uscire di casa accendeva la radio e lì si è appassionato al suono delle grandi big band, Billie Holiday così come Benny Goodman, tutti artisti che poi ha utilizzato con le loro registrazioni per sonorizzare i suoi bellissimi film. Ecco, la musica che tu ascolti, visto che appartenete alla stessa generazione, però tu sei italiano, lui è di New York, sì, e ha realizzato un film intitolato Manhattan, tu potresti realizzare un film intitolato Foggiattan. Che tipo di colonna sonora utilizzeresti? Questo era nell'idea del nostro amico comune. Di Renzo voleva fare un film intitolando Foggiattan. Beh, io penso che dalle origini musicali, le mie, l'ho ereditata da mia madre. Mia madre, quando io ero un ragazzino, suonava queste musiche. Nonna Anna. Le musiche di Gershwin, di Rogers. E quindi io l'ascoltavo dalla mattina alla sera, perché mamma suonava, insegnava fisarmonica. Eh sì, la nonna suonava pianoforte, la fisarmonica. È stata un'attrice, è stata la prima donna iscritta alla SIA in Italia. È stata forte, ma sì, perché la nonna ha scritto delle belle canzoni per gli artisti di quel periodo. Poi però non ha continuato, ha preferito fare la pittrice. Che donna la nonna Anna, È eccezionale. Sì. Concerti. Vabbè, ma noi oggi parliamo di Woody Allen. Sì, ecco, allora, fra i brani amati da Woody Allen c'è anche questa Spring Will Be a Little Late This Year, ovvero la primavera arriverà un po' tardi quest'anno. Speriamo di no, perché fa un bel freddo. Speriamo di no. Sì. E questa versione ci viene proposta dal pianista Red Garland. Anche grande. Lui ti piace? Grande. Red Garland, accompagnato da Paul Chambers al contrabbasso e Art Taylor alla batteria, una registrazione del 1958 tratta dal film Whatever Works, ovvero Basta che funzioni, del 2009, sempre scritto e diretto da Woody Allen, qui al Soundcheck di Radio 24. Check, il suono della musica. Papà, qui avevi 2 anni. Sweet Georgia Brown, un classico del jazz proposto da Coleman Hawkins in una registrazione realizzata a Parigi, e infatti sono presenti anche Stéphane Grappelli, che qui non suona il violino ma il pianoforte, e Django Reinhardt alla chitarra. Sì, perché oggi al Soundcheck celebriamo Music from the Films of Woody Allen, un bellissimo una bellissima compilation, 3 CD, un bel cofanetto, e poi soprattutto ci sono tutte le informazioni, papà, ovvero le formazioni, le date e anche i titoli dei film dai quali sono stati estratti poi i brani che ascoltiamo oggi. Sweet Georgia Brown con Coleman Hawkins, da Crimini e Misfatti del 1989, qui al Soundcheck. La cosa interessante, mio caro papà, che Woody Allen è anche famoso come autore di libri e ha scritto frasi celebri e aforismi. Io, guarda, ti passo questo foglio perché ce ne sono alcune che possono interessarti. Leggi anche la prima, se vuoi. Alcuni di questi li conosco tutti quanti. Li conosci bene. Per esempio, che ha scritto? Quello che mi piace a me è questo qui, che dice: il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. Eh beh, è vero, ce lo doveva dire Woody Allen, però è stato bravo che ha puntualizzato, ha scritto. Poi che cosa ti piace? Il sesso è una cosa molto bella fra due persone, in 5 è fantastica. Beh, questo io non lo posso dire, non mi è mai capitato. A te è capitato? No. Però è una frase. È sulla parola, crediamo a Woody Allen sulla parola. È stato un genio, no? Beh, certo. Poi dice, la risposta... L'amore è la risposta, ma mentre aspettate la risposta, il sesso può suggerire delle ottime domande. Delle ottime domande, è vero. Tu te le fai dopo aver fatto sesso con mamma? No, generalmente mi addormento. Che figura. Vabbè, allora andiamo alla musica, va. Ti faccio sentire Errol Garner. Ah, che meraviglia, quella mano sinistra che swinga da morire. Errol Garner con Will You Still Be Mine. Questa è una registrazione del 1953 per il grande pianista. Inserita questa versione da Woody Allen nel film Melinda e Melinda del 2004. Soundcheck, il suono della musica. E questa è una perla che troverete sempre in questo Music from the Films of Woody Allen, un brano tratto dal film bellissimo Bullets Over Broadway del 1994, ovvero Pallottole su Broadway, con la voce del mitico Al Jolson in Toot Toot Tootsie Goodbye 1927. Pensate un po', Al Jolson, nato nel 1886, scomparso a San Francisco il 23 ottobre del 1950, cantante, attore, compositore americano, è stato anche il primo cantante a vendere oltre 10 milioni di copie ed è stato l'attore protagonista del celebre film Il cantante di jazz del 1927, il film che poi ha segnato l'inizio dell'era del cinema sonoro. Tu andasti a vedere questo film, papà, ma molti anni dopo, insomma, stiamo parlando del 27, sei ragazzo rispetto al Jolson. No, ho visto soltanto degli stralci di questo film, che ogni tanto veniva inserito in qualche film. Cosa che ha fatto infatti anche Woody Allen, che ha estratto questo brano per utilizzarlo in Pallottole su Broadway. E la cosa bellissima di questa versione è proprio questo, Al Jolson come fischiatore, un fischiatore strepitoso. Come me. Come te, benissimo. Tu infatti dalla mattina alla sera fischi. Come mai, papà? Perché fischiando io compongo. Ah, scrivi così. Anche Totò faceva la stessa cosa. Io fischiando compongo. Beh, ci sono stati dei compositori che presentavano alla SIAE le loro composizioni basandosi sul fischio, perché erano melodisti non trascrittori e utilizzavano il fischio come strumento. E poi cerco di fare degli arrangiamenti, dei motivi noti. Infatti, tu fischi dalla mattina alla sera. Sì. Io quando vengo a trovarti a casa e sento il fischiettino so già che sono le 6:15. Capisco come il gallo, perché ti svegli prestissimo e svegli tutti noi. Va bene, papà, siamo agli sgoccioli. Non so se c'è qualche altra frase interessante scritta da Woody Allen per chiudere l'appuntamento di oggi. Se di tanto in tanto non hai degli insuccessi, è segno che non stai facendo nulla di davvero innovativo. È vero. Perché per creare bisogna avere anche degli insuccessi, no? Devi sperimentare, questo è il messaggio di Woody Allen. Che ne pensi? Io sono perfettamente d'accordo con Woody. Figurati. Certo, siete nati nel 35, tutti e due, come fai? Va bene, chiudiamo il soundcheck di oggi. Grazie papà, ti faccio sentire la celebre composizione scritta da lui prima, Sing Sing Sing, qui nella versione originale del 1937, anche qui avevi 2 anni, mio caro papà, per Benny Goodman con una super band. Sing Sing Sing chiude il soundcheck di oggi, brano tratto da Misterioso omicidio a Manhattan, sempre di Woody Allen del 1993, brano tratto da Music from the Films of Woody Allen, che noi vi consigliamo. Papà, questo io te lo regalo, così lo puoi ascoltare insieme. Grazie. A mamma e ricordare i vostri balletti da ragazzi. Per il mio compleanno. Per il tuo compleanno, papà. Okay, auguri. Grazie. Beh, ma poi ti farò l'altro regalo. Vabbè. Vorrei regalarti un sax tenore della Selmer, ma sai che il momento non è dei migliori, è bello caro, mi piacerebbe tanto. Prima o poi lo farò, però. Mi devo sbrigare? Grazie a tutti voi, buona serata, restate in contatto con Radio 24, noi ci risentiamo il prossimo weekend con il Soundcheck, sempre qui, sulla nostra radio preferita.